Ed ora possiamo continuare. Ecco la conversazione completa nel negozio di Giovanni. Yes, here's the complete scene in Giovanni's shop. Listen carefully and be ready for a short comprehension test afterwards. Nel negozio. Ah, questo è il negozio di Giovanni. Ciao, Giovanni. Come stai? Lorenzo, che piacere. Io sto bene, tu? Bene, grazie. Complimenti, la tua fidanzata è bellissima. No. Questa è la signorina Sara Jenkins, una collega inglese. Molto piacere. Piacere. Allora, signorina, le piace Firenze? Sì, mi piace molto. Complimenti, il suo italiano è perfetto. Oh, not really. Sì, è bravissima. Senti, Giovanni, cerchiamo degli occhiali da sole per Sara. Ah, qui abbiamo occhiali di marca bellissimi. Ecco, guardi, questi sono i più moderni. Le piacciono? Yes, can I try them on? Certo. C'è uno specchio? Sì, lo specchio è là. They're a bit too big for me. Sì, è vero, sono troppo grandi per lei. Ecco, questi sono più piccoli. Let me see. Fiori, signore? Fiori per la signorina? No, niente fiori. Niente fiori, grazie. Oh, these are nice. How much are they? Quanto costano? Vediamo, questi vengono 130 euro. That's too expensive. Troppo cari, ma le faccio uno sconto. Uno sconto? Per lei solo 100 euro, perché è un'amica di Lorenzo. 100 euros. È un grosso sconto. I suppose so. Well, va bene. Benissimo, con questi occhiali è ancora più bella. Can I pay with a credit card? Può pagare con la carta di credito? Ma è meglio in contanti, con lo sconto. Cash would be better because of the discount. Okay, no problem here. But where's my bag? La borsa? It's disappeared. Oddio, il ragazzo dei fiori! Accidenti! Ma non è possibile! Oh no, my credit cards, my money, passport... Chiamo subito la polizia. Un momento. Scusi, Sara... È questa la sua borsa? Is this your bag? Oh, yes, but where did you find it? Sul pavimento. On the floor. Proprio qui. Meno male. Oh, I'm so sorry. I must have dropped it when I tried the sunglasses on. Oh, grazie mille, Lorenzo. Di niente. È meglio controllare se c'è tutto. Check if everything is there. Oh, yes. Ma le carte di credito ci sono? Credit cards. Yes, ci sono. And the money's also here. Ci sono anche i soldi. Bene. Ma sì, ma il passaporto c'è? The passport, yes, c'è, but... Oh, wait a minute. This isn't mine. Non è il suo passaporto? E di chi è? Whose passport is it? It says George Wickham. E chi è George Wickham? Oh, there must have been a mistake at the hotel reception. Sì, è possibile. Il suo passaporto è sicuramente alla reception. È meglio telefonare subito all'albergo. C'è un telefono nel mio ufficio. Grazie, Giovanni. Ma ho il mio cellulare. Ah, certo, il telefonino. Però non ho il numero. C'è un elenco telefonico? Certo, ecco. Dunque, ecco. Hotel Berchielli. 055... 235541. Pronto? Sì, buongiorno. Sono Lorenzo Conti e sono con la signorina Jenkins. E come? Il signor Wickham è là? Con il passaporto? Sì, esatto. Ah, non c'è problema. Arriviamo subito. Arrivederci. Sì, il signor Wickham è alla reception con il suo passaporto. Oh, thank God! Thank you so much for calling immediately. Grazie mille. Prego, non c'è di che. Bene, torniamo all'albergo. Giovanni, grazie e a presto. Yes, thank you. Grazie. Arrivederci. Sì, ma gli occhiali? Gli occhiali? Yes, I'm wearing them. Appunto. Oh, my God! I have to pay, vero? Vero.